Rimestando la città, gli architetti hanno la via libera. E tratti di matita, segmenti netti a disegnare un'isola. Lontana dai nostri perché ambita e nobile, ma misera. Verde ambiente qualità, gli architetti sono qua in prima linea. Un'alta torre diventerà il futuro di questa città magnifica. Ora se non ci stai a dire ra, se come permetti un non chissà, diventi un perfetto. Terrorista, dying guy.